America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Lavori annuali del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, le notizie le avrete già ascoltate, proiezioni macroeconomiche col World Economic Outlook, una riduzione delle stime di crescita globale nel 2014 più 3,3%, prima doveva essere forse anche il 4%, area euro, cresceremo pochino nel 2014 più 0,8%, senza contare quelli meno fortunati come l'Italia, che forse cresceranno anche meno, se cresceranno del tutto. Per l'Italia, infatti, la stima per il 2014 è per una contrazione dello 0,2%. Per gli Stati Uniti una crescita media del 2,2%. Vorrei però oggi affrontare un tema nel contesto macroeconomico, non diciamo di natura tecnica, ma di natura macropolitica, un tema che ci interessa, perché la notizia interessante è che il Fondo Monetario ieri ci ha detto che la minaccia più seria per l'economia globale è una minaccia geopolitica. Questa è una notizia. Nella notizia, le instabilità generate dal conflitto Russia-Ucraina-Occidente, quelle generate dalle guerre religiose fra sunniti, sciiti, fondamentalismo jihadista, profughi, rifugiati, forse 1 milione in Ucraina, nel cuore di quell'Europa che si guadagnò, forse ingiustamente, il premio Nobel per la pace. Profughi e rifugiati, alcuni milioni fra Siria, Iraq, Kurdistan. Per ora, dice il fondo, il fenomeno è contenuto a quelle regioni, ma se esplode, insomma, questo problema dei rifugiati diventa davvero uno dei problemi più gravi del nostro tempo, di cui dovranno occuparsi non solo Fondo Monetario Internazionale, ma soprattutto la Banca Mondiale. Ricordo una chiacchierata alcuni anni fa con Jim Wolfensohn, che era il presidente uscente della Banca Mondiale, e mi disse: il problema più grave per il mondo? Un esodo in massa. Un esodo dall'Africa, una fuga dalla siccità, dalla fame, dalla morte di milioni di persone, una fuga biblica. E poi la provocazione che mi fece, dice: ma cosa succederà? Pensate voi italiani che avete 80, 90, 100 mila profughi all'anno, dice: ma cosa succederà se improvvisamente ci fossero 20, 30, 40 milioni di persone in marcia verso l'Occidente? E poi mi disse Wolfensohn, mi disse: mi creda che possono fare migliaia di chilometri a piedi. Ecco, questo è il problema. Perché? Perché notizia nella notizia nella notizia, tra l'altro oggi su America 24 abbiamo un mega montaggio dedicato proprio ai problemi dei rifugiati, lo trovate anche sul sito del Sole 24 Ore, andateci per cortesia, perché lì avrete uno spaccato molto più ampio. Ecco, la notizia è che nel mondo oggi ci sono circa 50 milioni di rifugiati, ed è una cifra record. Il problema non è mai stato così grave, così serio, dalla Seconda Guerra Mondiale a questa parte. Pensate che gli Stati Uniti, che pur accolgono 70.000 persone all'anno, ne hanno deportate, ne deportano mediamente 400.000 all'anno. Dopodiché in America restano almeno 12 milioni complessivamente di immigrati illegali che sono arrivati qui fra il 75 e l'80. Sentiamo Samantha Power, ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, che ho incontrato l'altro giorno qui a New York. 2 million people have been displaced in southern Kordofan and Blue Nile in recent years. Often the government strikes medical clinics. Ecco, avete sentito Samantha, è un commento sul film. Vi ho parlato ieri di questo film dei profughi del Sud Sudan. Lei dice con voce affranta che il problema oggi è tornato ad essere quello di 10 anni fa. Poi conferma che il programma dei rifugiati firmato proprio in questi giorni dal presidente Obama allarga a 70.000 il numero di persone che saranno accolte ufficialmente, legalmente, negli Stati Uniti. Sentiamo Renzi. Mi presento in questa assemblea un anno dopo che il governo italiano ha lanciato una importante operazione chiamata Mare Nostrum. Grazie a questa operazione mi presento a questa assemblea potendo dire che le donne e gli uomini della Marina italiana e del volontariato italiano hanno salvato 80.000 vite umane. Grazie a un'operazione che rivendichiamo ma che non può essere oggi lasciata soltanto all'Italia. Ecco, Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, qualche giorno fa alle Nazioni Unite, operazione Mare Nostrum, è inutile pensare che si possa risolvere il problema soltanto salvando delle vite di disperati che arrivano su questi barconi. Bisogna tornare al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, alle istituzioni e cercare di affrontare il problema alla radice, perché se in Siria continuerà la guerra civile, beh, in Siria ci sono 3 milioni di rifugiati, è il secondo paese col più alto numero di rifugiati dopo la Palestina, 4 milioni, complessivamente i rifugiati interni in Medio Oriente sfiorano i 10 milioni, quasi la metà della popolazione della Siria è sfollata all'interno del proprio paese, 22 milioni, i profughi all'estero, Turchia 850 mila, Libano 1 milione, Giordania 618 mila, Sud Sudan 132 mila, Ucraina 814 mila, ucraini rifugiati in territorio russo. E l'Italia, oltre ad accogliere questi disperati, sicuramente un'operazione ammirevole dal punto di vista umanitario, dovrà battersi perché le autorità europee da una parte, ma le autorità multilaterali dall'altra, intervengano per andare ad affrontare questo problema alla radice. Prima di tutto stabilità e dopodiché aiuti economici. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli ad america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, No Woman No Cry, un classico di Bob Marley, reinterpretato dai Fugees, che è un derivato di Refugees, un gruppo che ha voluto reinterpretare questa canzone dedicandola ai rifugiati di tutto il mondo. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future you can't forget your past. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.